deciso così, voglio stare da solo un po'. Scusami, sai, soffro anch'io come te, ma è davvero più forte di me. Se tu lo vuoi, un amico sincero sarò, forse di più, di un amico di più, ma non chiedermi cosa farò. Chissà se domani cambierà la mia vita, chissà se la vinco questa nuova partita, lontano dal mondo che avevamo inventato, un mondo che adesso sembra tutto sbagliato. Chissà se domani sarà un giorno normale, oppure una festa come fosse Natale. Chissà se domani cercherò un'emozione, facendo l'amore con la stessa canzone. Non so se domani avrò qualcosa da fare, chissà che ti invento per poterti scordare, un gioco, un lavoro e magari un amore, però che casino, non ci voglio pensare. Se tu lo vuoi, un amico sincero sarò. Questa città non è grande per noi, incontrarsi accadrà prima o poi. Chissà se domani troverò la mia strada, ma oggi ho deciso vado un po' come vada, e ancora una volta seguirò i miei pensieri, e forse domani sarò meglio di ieri. Ti scriverò forse qualche bugia, nascondendo la malinconia. La libertà non è sempre poesia, e chissà se domani, chissà se mi mancherai, dolce abitudine, o se mi basterà la solitudine. Chissà se domani cambierà la mia vita, chissà se la vita